Rai 1 vi rinfresca l'estate. Una volta non basta. Quest'estate la fiction di Rai 1 bussa due volte. Tornano i sentimenti più forti, i personaggi più veri, perché per voi e per noi la fiction è una grande realtà. Tanti successi passati e visti una volta sola, ma quando una cosa è bella, una volta non basta. Ogni settimana la grande fiction bussa sempre due volte. Inizia la serie Mia per sempre. Ovunque voi siate, è più estate. L'estate fiction Rai 1. Mi dica solo dove e quando. Mercoledì e venerdì. Seconda puntata dell'Accademia della Brusca con la Nenia e la Nina, che sono io. Come mai abbiamo iniziato con questo bellissimo pezzetto che proviene da una pubblicità di Rai 1? Perché il tema di oggi è l'English. Quindi abbiamo eletto fiction, parola del dì, per parlare un po' dell'inglese e il suo rapporto con l'italiano. Visto che noi amiamo circondarci di queste belle paroline, che in realtà in lingua madre, quindi in questo caso inglese, non vogliono dire praticamente nulla, o perlomeno hanno un senso un po' differente. Quindi, cosa possiamo dire? Che noi italiani abbiamo un bestiario linguistico veramente allucinante, con cui accogliamo turisti e visitatori, o comunque avventori vari, stranieri. E quindi il nostro inglese è proprio una fiction fatta di parole improbabili che propiniamo quotidianamente in diversi luoghi e situazioni. Cosa dici, Nenia? Ma io dico che facciamo bene, perché tanto parliamo male anche l'italiano. Esatto. Parliamo male anche l'inglese a questo punto. Ma non potremmo fare altrimenti. Linguation! No, altrimenti cioè, non saremmo... I cani a volte, insomma, che siamo, ecco. Esatto. Allora, volevamo iniziare questa puntata con una sorta di statistica, nel senso, guardando un po' diversi dati che ci sono online, dall'Huffington Post, altre ricerche del Corriere della Sera e di un sacco di altri giornali, vediamo che più o meno chi ha la competenza linguistica peggiore in inglese sono i greci. Prima di loro ci sono gli spagnoli e noi ci classifichiamo al terz'ultimo posto. Manco a dirlo, quelli più bravi sono gli scandinavi. Quelli meno bravi però sono anche un po' più simpatici alla fine. I greci? No? Sì, anche gli spagnoli, dai. Quindi ci accontentiamo. Possiamo essere così un po' beceri con l'inglese ma simpatici. Comunque siamo stati surclassati anche dai francesi che, nonostante tutto, continuano a chiamare il PC ordinateur, il mouse la souris, e però sanno meglio l'inglese di noi. Vabbè. Ma possiamo partire con il primo pezzo, che era ovviamente... We must stand and choose now and hold the scene in a hurry, maybe get the color boss dying. Chance and mind, we get a cold, baby, so stay yet, Bill Joe. Choose now and hold the scene in a hurry. called David the Jam. You do come and not choose no wife, but not so hope, hope, but just get along to cope and no time. Oh, but if it's just stand, light the shoes and go, my man. You could cost you the match called the Raider Girls. Oh, something. Eccoci, questa era Specialicius di Celentano. Che io ho concluso a merda, scusate, ho sbagliato. La linguistica ha un bisogno sempre impellente, è quello di farsi sentire, per cui non c'è nemmeno spazio per Celentano. Tra. Vai, Adrianino a casa, Adria. Via. E basta, no? Anzi, Adrianino go home, visto il tema della serata. Sì, che in realtà anche questo go home, home, anzi, è una cosa abbastanza antica, no? In realtà antica, perlomeno, è un pezzettino che si sente dire in cori da stadio, cose del genere. Il problema un po' tra l'italiano e l'inglese oggi invece è quello di inserire alcune parole che hanno un conio piuttosto recente, che derivano quasi esclusivamente dalla sfera del lavoro, del marketing. No. Io vi sento dire spesso facciamo un briefing invece che dire riunione di aggiornamento, oppure nelle mail ti prego mandamelo ASAP, acronimo di as soon as possible, e potremmo dire al più presto. Ecco, questo un po' mi fa venire l'orticaria, ASAP. Perché è veramente fuori luogo, è esagerato, sì. Se ne può benissimo fare a meno. Io non sono una super fan dell'italiano punto e basta, per carità, però questo un pochino mi infastidisce. E anche a me, perché più che altro anche gli inglesi non direbbero ASAP, ma lo pronuncerebbero in una maniera differente. E se lo dice con un inglese, lui ti dice please as soon as possible, non ti dice ASAP, per esempio. Poi abbiamo anche il mock-up, tipo, no? Che potremmo dire, insomma, uno schizzetto di prova, un bozzetto, queste cose qua. Onestamente anche questo, un bozzetto è troppo più bello. Sì, ti fa venire in mente il fashion, il mondo fashion. Ti ha preso completamente il posto di chic. Poveri francesi, anche in questi hanno perso tanto. Hanno perso tanto. Questo è anche un caso particolare di interferenza linguistica. Cioè, noi oggi siamo un po'... occupati, diciamo, no? Da queste, la nostra lingua è occupata da queste interferenze linguistiche che poi hanno davvero effetti di tipo socioculturale, cioè tra i social network e tra questo, diciamo, espandersi del lavoro, chiamiamolo, del settore, boh, si può ancora dire terziario oggi, vediamo che ci siamo, abbiamo visto un po' di inquinamento. Però tutto questo English come entra nella nostra lingua? La nostra cara linguista Nenia, che lavora, che ci impara l'italiano ai bambini, che ci impara l'italiano ai bambini. Scusate, ma io qui ho i tecnici in regia che mi stanno facendo bionda, che cavi e cavetti. Abbiamo una regia, tra l'altro, fantastica, li vorremmo salutare. Sì, sì, ciao amici, grazie per il supporto. E quindi cosa sta accadendo alla nostra lingua? Si chiedono i più puristi. Cioè, le lingue sono comunque organismi vivi che si arricchiscono e cambiano, vivono di gap, di gap permanenti. E tutto quello che succede con l'italiano, nei rapporti tra italiano e inglese, spesso e volentieri vengono, diciamo, definiti con prestiti, forestierismi. Ne abbiamo di diversi tipi. C'è quello, ad esempio, più comune, no? Le parole club, le parole ok, sono dei prestiti. Abbiamo anche poi, per esempio, dei falsi prestiti. Se vogliamo proprio continuare con questa classificazione noiosissima, ci sono i prestiti storici, recenti o i falsi prestiti. E un prestito storico, per esempio, potrebbe essere la parola patata o caffè. Cioè sono quelle parole che hanno, diciamo, sono un po' antiche e che vengono a, diciamo, identificare un oggetto, un bene di cui prima non si conosceva l'esistenza. Pensa, tu la mattina adesso ti svegli e dici: ah, guarda, mi faccio un caffè, intanto metto a bollire le patate, e non sai che stai usando un termine di prestito antichissimo. Non come dire, tra 200 anni mi alzerò la mattina io, proprio io, Nenia, e dirò: oh, guarda, ora vado a fare un briefing, ASAP, un ASAP, subito, presto, allucinante. Però queste parole, vedi, hanno anche una fonetica o comunque un qualche cosa che è un po' più simile alla nostra lingua. Sì, l'abbiamo anche masticato abbastanza poi per renderlo simile, perché, voglio dire, io non penso patata si dicesse patata, cioè, patata. La patata, come dire, però qua, cioè, è impensabile. Chissà. Poi se vogliamo continuare questa super cazzola di prestiti, della tipologia di prestito, ce n'è una che è molto molto carina, che è quello un pochettino più di lusso, cioè la parola babysitter, per esempio, la parola manager, sono quei prestiti un po' altolocati che sono entrati nella lingua italiana più o meno negli anni '80 e che delineano appunto delle professioni che esistevano anche prima, la tata, la balia, il direttore, però abbiamo preferito dargli un tono un pochettino più sfarzoso. Questo lo approvo. Lo approva la Nenia, è questo. Sì. A questo punto però io vi faccio partire un pezzo, non posso farne a meno. Allora, siete pronti? Io no, perché scusate, ma oggi sono incasinatissima. Penso che vedeste la nostra regia. È molto accogliente, ma è piccolina. Sì, deve essere anche quello il problema, non è un problema solo mio. Questo è un pezzo però che vi stupirà. Si fermò, c'è il gatto là, ma lui no, non conosce. Tu ma dire come c'è restato quando gli ha visto il gatto spappolato, e ora no, non c'è più gatto, ma è morto il gatto. Gatto, mi è rimasto quattro ciotole di latte, a chi le do senza il gatto, m'è morto il gatto. Para los gatos desaparecidos. no fiore por los gatos muertos, porque muertos son gatos, se ne hacen notos. Non potevo tagliare questo pezzo, scusate, ma io ho questo viziaccio di far sentire i veri pezzi tutti fino alla fine. Abbiate pazienza, anche se vi abbiamo fracassato i Maroon con 7 minuti di gatti mezzi. Gatti mezzi. Ecco. Io ho gli amici di Lari a Pisa che dicono gatti mezzi. Lo so, ma soprattutto che vuol dire? Che vuol dire? Io non lo so. A parte se... gatto bagnato e la traduzione più istantanea e ovvia, diretta, che ci può venire in mente, ha un altro significato, ma io non ve lo dirò. Perché? Perché non ve lo dico? Perché la settimana prossima noi avremo una super splendidissima ospite. La nostra external consultant. The Miss Wendy, che verrà per l'appunto a darci delle delucidazioni, prima di tutto sui gatti e mezzi, che spetta a lei questo. The wet cats. E poi in generale, perché sarà veramente la nostra consulente di linguistica e di inglesismi. E anche quindi, di vernacolo toscano, perché né io né la Nenia siamo toscane. Per ci, cui ci dispiace, abbiamo bisogno di una spalla. E lei è una gran vera spalla. Grande Miss Wendy, ti aspettiamo! E adesso che cosa ci racconti di bello? E cosa ora abbiamo? Abbiamo la nostra prima rubrica della serata. E modi di sdire. E subito vi faccio lo stacchettino quello. Jingles. Errori più importanti e più frequenti nell'apprendimento di una lingua straniera, magari l'inglese, da parte quasi sempre delle persone latine o comunque italiane in generale. Primo errore, che però sicuramente può essere normale inizialmente, pensare prima in italiano e tradurre letteralmente quello che si pensa. Sì. Numero 2, errore un pochino più grave, il pensare che qualsiasi frase esista nello stesso modo in inglese o in un'altra lingua, ovvero uguale ma tradotta alla lettera. Come ad esempio, tipico esempio, e capirete quello che voglio dire in questo modo. Quando si vuole dire l'esclamazione "che due palle", ecco, o "che due scatole", in modo meno maleducato, in inglese non esiste la traduzione "what two balls", "what two balls", non esiste. Ma magari si potrebbe dire "oh, so annoying", ad esempio, "oh, così tanto seccante", "oh, that's so annoying", è così tanto seccante. Terzo errore, anche questo abbastanza grave, è il fatto di pensare che una frase, una parola, anche pronunciata male, si capisca comunque. Tipico esempio per farvi capire che chiaramente non funziona così in nessuna lingua potrebbe essere ad esempio la frase "oh, let's go to the beach", per dire "andiamo in spiaggia", quando in realtà la parola che abbiamo detto, beach, non è spiaggia, ma stronza o puttana, in modo come per dire una persona un po' stronza, ecco. Quando invece spiaggia è beach, non beach. Grazie, grazie, Mino. Questo signore è veramente un lord, ha fatto veramente due esempi lampanti. E quindi lo ringraziamo per le sue delucidazioni. Nenia, dove l'hai trovato? Su YouTube. Chiaro. Sul tubo. Sul tubissimo. E d'altronde anche noi poi ci divertiamo un pochettino con i nostri modi di sdire. Per esempio ne abbiamo tradotto "alla Nenia è rimasta una cuffia in mano". Ops. Abbiamo tradotto qualche piccolo detto così, in maniera proprio maccheronica e letterale, come dice il nostro amico di YouTube. Wow. Per esempio, secondo voi cosa vuol dire "I am dead of hunger"? Ha morto di fame! E "wives and dogs of your countries"? Wow, stupendo. Questa è moglie vuoi dei paesi tuoi. E poi ne ho un altro in comune con il nostro amico in Autodate, che fa il programma il giovedì sera 8 Hertz. E noi ci divertiamo sempre a dire "and so there goes the little cat that he leaves the little pod". Tanto va la gatta al largo, non al lardo, che ci lascia lo zampino. Al largo. Fate largo ai gatti. Detto, largo ai gatti, come si è detto la settimana scorsa. Però poi, ovviamente... abbiamo anche quelli veri per voi. Sì, sì, dai, diciamo anche quelli veri, perché altrimenti sembriamo sempre... E ci sono appunto alcuni detti, facciamo pure una carrellata veloce, che sono molto utilizzati in italiani e che in alcuni casi hanno casualmente appunto una traduzione molto simile a quella, scusa, una traduzione, comunque vogliono dire e soprattutto hanno la stessa forma dell'italiano. Per esempio, abbiamo il primo, spremersi le meningi, che si dice rack your brain, cioè spremi il cervello. Le meningi sono una parte del cervello e quindi... Poi abbiamo una cosa che a Firenze vi capiterà molto spesso se passate di qua. Pagare un occhio della testa. E in inglese si dice pay something through the nose, cioè pagare qualcosa con il naso, attraverso il naso. Cioè noi italiani diamo un occhio della testa, d'altronde non mi risulta ci siano altri occhi nel corpo umano, e invece gli inglesi usano il naso. Mai dire mai. Ma è il naso, però effettivamente l'occhio costa di più, è d'altronde più, sì, so, sofisticato, no, come strumento, esatto, dei nostri sensi. Sai, gli inglesi sono sempre molto più asciutti nei modi e nelle cose. Certo, vero, cui... vero. Asciutto, insomma, dipende dalla stagione. Vabbè. E poi abbiamo essere sulla stessa lunghezza d'onda. E in inglese si dirà be on the same page, cioè essere sulla stessa pagina. Sono un pochettino più, come dire, pratici loro. È molto, cioè, più stiamo... bello questo, effettivamente, sì. La lunghezza d'onda mi viene in mente un surfista, non so, poi a voi. E infine, questa piccola carrellata, il bellissimo... È un litigio di poco conto. Che, come possiamo dire noi in italiano? Boh, mi è venuto soltanto questo. No, infatti non c'è... roba bazzeccole, non è un modo di dire quello, no, che poi usiamo in italiano. Però dovremmo avercelo anche noi, perché in inglese si dice storm in a cup, una tempesta in una tazza, possibilmente di tè. E infatti, perché qui niente è lasciato a caso, figuriamoci, vi farò sentire un more. De Paul, Stormin' a Teacup. E adesso invece abbiamo la rubrichina I puntini sulle... Oh! In che senso? In che senso? In che senso, direbbe Carlo Verdone? Nel senso, in questa puntata di cosa possiamo parlare? Quale puntino sulla U possiamo mettere? Se non il soggetto nullo in italiano e in inglese. Ah, e qui vi vogliamo. Questa è veramente una spada di Damocle, un tallone d'Achille. Allora, poi vi faremo anche sentire appunto un pezzo dei Beatles, non diciamo altro, segreto, dove appunto si spiega bene questa regola del soggetto nullo. Possiamo dire così, l'italiano si dimentica chi è, ma l'inglese non lo fa mai. Ecco, ti è, beccati questa. Tiè, tra. Ok. Ascolto. Cara Nenia, no, invece ascolto. Ti tiro in ballata, visto che tu ci impari queste cose ai piccoli. Piccolini, ci puoi dire un pochettino come può funzionare in italiano questa regola del soggetto nullo, sì o no? Allora, l'italiano non ce l'ha semplicemente perché ha una morfologia verbale che ci permette di capire chi è il soggetto. Mangio, ascolto, esatto. Ascoltano. Esatto. È già compreso nel prezzo del verbo, per cui non abbiamo bisogno. Con la coniugazione, esatto. Con i nostri carissimi... verbetti italiani che sono così irregolari. Simpaticissimi, facilissimi. Però gli inglesi dicono tutto uguale, no? A parte la terza persona che mette una S. E quindi l'inglese, proprio per questo motivo, non possiamo mai omettere il soggetto. Eccetto però l'unica, giusto? L'unica esatto. Eccezione che è la creazione dell'imperativo, poi. Esatto, tipo listen, ascolta. E allora qui capiamo se siamo... in due in una stanza, questo lì se sarà rivolto ovviamente, se detto da un'altra persona, a me che non sto ascoltando. Anche perché è molto ferrea la regola dell'imperativo, o tu o voi, stop, esatto. Non c'è tanto da ragionare, quindi per forza di cose l'interlocutore è presente e non ci possono essere equivoci, questo è il motivo per cui probabilmente nella lingua inglese si concede l'assenza di tu o di un soggetto, in italiano ovviamente se ne può fare a meno, voglio dire. Esattamente. Ce lo possiamo quindi... anche un po' permettere, no? Eh sì, esatto. Quindi... Però penso che poi nell'albero, nel sintagma, rimanga comunque la traccia, forse. Stiamo andando No, ma infatti lasciamo perdere, se ne riparlerà forse in una puntata dedicata solo ed esclusivamente al sintagma. Studenti di filologia, di scienze della comunicazione, state ben attenti perché la Nenia e la Nina vi imparano a fare gli alberi, le costruzioni sì. Morfologiche. Per fare un albero ci vuole la Nina, ma la Nenia no, perché no, lasciamo stare. Ma questo io preferisco la versione tra parentesi. Io le parentesi quadre, sì, lo gradisco di più. Anch'io, perché invece nei quadernoni se si fa lo schema ad albero, proprio quello ramificato, veramente ti serve. Aiuto. Ho 8 quadernoni a quadretti, pigna. Pro. Piccolo o grande. E anche in questo caso potrebbe centrare il piccolo. Sì, effettivamente sì, ma lasciamo perdere, non perché se no ci bruciamo troppe puntate e poi non sappiamo più di che cazzo parlare. Ma passiamo subito a un pezzo musicalissimo. I think it's today, yeah. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, and she don't care. I heard that living was bringing her down, yeah. She would never be free while I was around. Oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, and she don't care. I don't know why she's riding so high. Shadow think twice, shadow do right by me. before she gets to saying goodbye. Una piccola incursione della nostra Questo brano dei Beatles dice appunto due volte she in due frasi ravvicinate, ma dice don't e non dice doesn't. Attenzione, abbiamo un soggetto nullo esatto, ma una connotazione sbagliata. Oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride and she don't care. Don't know why she's riding so high. Shall I think twice, shall I do right by me? Before she gets to saying goodbye. Shall I think twice, shall I do right by me? My hurt and living was bringing her down, yeah. She would never be free while I was around, yeah. Oh, she's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. Noi qui si parla sì. di tante cose interessantissime. Rischiavamo. Dai, ridillo, ridillo, se hai il coraggio. Stavamo parlando di verbi argomentali, ma anche questa è una cosa che arriverà alla prossima puntata. Sì, però è interessante l'esempio che ha riportato dei verbi in inglese che ci concedono. Allora, dove ce li avevi? Dilli. Sono questi qui. Praticamente tutti quei verbi in inglese che identificano il tempo atmosferico, tipo piovere o nevicare, esigono sempre un soggetto che generalmente è quello della terza persona singolare, tra virgolette neutra, it. Quindi it rains, it snows. E in italiano invece non c'è. Possiamo tranquillamente dire, oh, guarda, piove. Non hanno nessun altro argomento, possiamo esatto. usarli da soli. Praticamente sono un predicato verbale, sono una frase intera. Dire piove si può ritenere una vera e propria frase, mentre in altri casi in cui è previsto per forza un altro argomento, come complemento oggetto o complemento diretto, non equivale a una frase il verbo da solo. In questo caso, sì, la. La, avete capito? E ora un'altra rubrica, smettiamo di ammorbarvi con queste cose super, super, super tecniche e si parte con il parolone. Ma soprattutto con il proiettone. Il proiettone. Si fa partire arriva. Il proiettone, che Vai. Ne dici? È nuova questa, eh? Thank you. Thank you. Saremmo potuti andare avanti all'infinito con questo pezzo, ma invece no. Invece no, oggi appunto il tema è il pessimo rapporto che l'italiano ha con l'inglese e quindi quante volte, soprattutto in questo periodo di serie TV americane, proprio a non finire, vi siete sentiti dire ma mi hai spoilerato il finale della sesta serie? Che palle! Oppure, scusa, ma il famoso briefing di cui si parlava prima, pure quello è diventato, da sostantivo straniero, è diventato un verbo italiano della prima coniugazione. Briefingare, ragazzi, ebbene sì. E stigazzare, quando diventerà un verbo? Crusca, quella vera. Crusca vera, aiutaci tu, ti prego. Rifiutiamole. Fate come con Pesaloso. Esatto, via, show! E questi sono dei forestierismi che diventano anche neologismi, cioè nel senso molto probabile che tra un pochettino ci ritroveremo nel vocabolario. Che peccato. Insomma, provate a tirare fuori uno di questi termini nella vita quotidiana e vediamo che reazione avrà il vostro interlocutore. Però adesso appunto vi diamo una listina carina. Deadline, dillo, ti deadline prego. Non è la linea morta, ah. È la scadenza di una consegna, una cosa che io mi sento dire tutti i giorni. Deadline è la lingua morta. Esatto, oppure se non la rispettate la deadline, i morti siete voi. Cazzo. E poi cosa abbiamo? All inclusive. Questo è proprio da pubblicità. Questo è, esatto. Scambiando lettere, quindi facendo una sorta di anagramma, potrebbe saltare fuori un volgarissimo all inclusive. Quindi occhio che al prossimo piano telefonico che sottoscriverete, insomma, potreste vedervi la magagna. Ecco. Tutto sotto compreso, esatto. Sì. Meglio dire tutto compreso. Yeah, sì, dai. E poi abbiamo contest al posto di gara e il talent show che è entrato proprio in maniera arrogante nel nostro vocabolario, dopo anche il già bistrattato talk show di Costanzo. Mamma. Ecco. Oh, tanto per dirne uno. Ma soprattutto. E poi abbiamo, non so, la parola random, casuale, insomma ne abbiamo veramente tantissime, talmente tante che ci potremmo anche giocare con tutte queste parole. Ma anche forse... swimming, and at the end it's wave your hands twice. Let's do it properly. Super dance. Sleep. Wave your hands. Hitch a ride. Sneeze. Go for a walk. Let's you swim. Now ski. Spray! Macho Man! Sound your horn! Ring the bell! Okay! Kiss! Comb your hair! Wave your hands! Come on, wave your hands! Superman! Okay, now it's quicker because we change every two beats. If you manage to get it right, from now on you can do it with the music on your own. Non vogliamo che vi stanchiate troppo a ballare. Sì, anche perché comunque è un pezzo che fondamentalmente fa cagare. Esatto. Questo, per chi non l'avesse capito, era il Joker Jouet del 1980 nella nostra rarissima English version trovata dalla Nenia. Yeah. Siete pronti per un'altra rubricona? Questo è il grande pronuncione. Vi devo far sentire subitissimo una pubblicità del 1984. Tutto abbastanza per passare a Ciao Creme. Oh, ciao bocconcino. Ciao, vai in merenda con me. Ma dove vivi? La merenda non si fa più e così. Ecco come si fa, con due gusti. Me la fai provare? E tu che mi dai? Un bacio. E no, due gusti, due baci. Ciao Creme 2, la crema da spalmare al gusto di nocciola e cioccolato. Meglio due gusti che uno solo. Ammazza, negli anni Ottanta, è puntata super vintage questa. Hai capito? Ciao Creme. La creme della creme. La precocità. No, ma soprattutto il video è una roba che non si può sì, vedere. Vi veramente. Consigliamo di andarlo a vedere, perché non si può vedere, ma il piccolo bullo che stasera sarà a tifare la Fiorentina da qualche ovviamente. Parte, lo sappiamo. Lo sappiamo che ci sei. Bastardo. Perché vi abbiamo messo questo spot del Ciao Creme, la terribile Nutella mi gusto. Beep! Esatto, terribile proprio. Perché a noi sembrava che questo creme fosse detto quasi cream, sembrava fosse detto male. Non so se è stato un abbaglio che abbiamo preso io e la Venia. Non lo so, sentito così sul nostro amico tubo un po' sembrava. Però c'è un'altra cosa, anche che questo prodotto, appunto, che doveva arrivare sulle tavole degli italiani, soprattutto piacere ai bambini, doveva avere un nome simpatico, per cui cosa hanno fatto? Hanno inserito un ciao e un creme che sarebbe sembrerebbe scritto cream, e invece c'è stato un assorbimento, diciamo, del dittongo di cream, quindi della parola inglese, ed è stato italianizzato in creme. Non so se per farlo ricordare meglio, o semplicemente perché erano gli anni Ottanta e ognuno faceva un po' come cazzo gli pareva. Esattamente, per cui abbiamo voluto portare un po' indietro negli beati anni. Beati anni Ottanta. Avete capito? Però senti, a proposito di pronunce, io adesso dopo tutta questa merda vi devo far sentire un pezzo molto molto molto carino a voi. Gosh, I can't keep this up much longer. I haven't been on skates since I was a kid. Well, it was your idea. Yeah. How much longer do we have to stay out here? All the reporters will probably leave by dark. I guess it would look kind of funny if we denied the marriage now, wouldn't it? I don't know what to do. I don't either. The word is either. All right. The word is either. No use squabbling. That'll get neither of us any place. The word is neither. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. 'Cause you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It's plain to see we two will never make one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Oh, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Oh, let's call the whole thing off. You say laughter, and I say laughter. You say after, and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like Havana, and I like Havana. You eat banana, and I eat banana. Havana, Havana, banana, banana. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, If we ever part, then that might break my heart. So if you like oysters and I like oysters, I'll take oysters and give up oysters. No, we, no, we need each other, so we better call the calling off. Oh, let's call the whole thing off. Vi è mai capitato durante le lezioni di inglese alle superiori di non sapere se si diceva either o either, neither o neither? Ecco, questa canzone vi dice che si possono dire tutte e due le cose, per cui tutti e quattro che vi siete beccati potete tranquillamente buttarli nel dimenticatoio. Che bello, meno male, un po' di tranquillità, perché ogni volta mi preoccupo sempre che tu stia diventando una grammar nazi. Dillo! No, lo tengo nascosto nel mio angolino più recondito. Fare la punta ai congiuntivi. Sì. Oh. Ci stiamo con gli orari, sì, sì. 19:59 con qualche secondo di ferita perché ci ascolta il streaming. E per oggi abbiamo... Per oggi è fatta, ragazzi. Quindi... Oggi 3 novembre, ma domani, ora facciamo finta di averlo appreso così, soltanto adesso. Oibò, domani è l'anniversario dell'alluvione. Esatto. Nel 4 novembre del 66 Firenze è stata completamente allagata da una marea di fango. Già, in città gli angeli del tango. Noi vi lasceremo chiaramente con un ricordino di questo anniversario, ma prima vi ricordiamo. Allora, sito wombat.noblogs.org. Gli altri li sapete? twitter.com/radiowombatfi come Firenze, facebook.com/radio-wombat-firenze. E per gli insulti e le ingiurie? Yes. postawombat@insiberia.net. Tutti in Siberia! Tutti! Allora, tanti saluti da questa nostra regia e niente, vi lasciamo un bel regalino e ci vediamo lunedì. Giovedì, non so perché ho detto lunedì. No, lunedì ci sono quelli che fanno il prog, no? Anche loro sono martedì. Ecco. Ciao a tutti quanti. A giovedì prossimo. Ciao. Ai tempo della Lugo ne faceva ancora agricoltore. Però l'acqua da noi non è venuta vicino. È arrivata a quanta? 200-300 metri dalle nostre stalle. Si entrò nella stalla, mi ricordo. E da primo si pigliava come scherzo, non ci sapeva idea di quello che fosse successo a Firenze o nei dintorni. Mi ricordo che un mio amico costruì una zattera, anzi ci si divertiva perché si era giovane, sai, da ragazzacci quella maniera, non è che si pigliasse sul serio la vicenda in un modo tragico. Costruì una zattera e si andava a portare viveri a San Mauro, a Signa, a suoi parenti, mi ricordo. Io dopo un po' però ci si rese conto del malessere e io entrai in una squadra a levare i cadaveri delle mucche morte, erano un po' scappate sotto le travi, sotto le cantine, sotto le tinaie. E si faticò un monte, ma però io mi viene in mente una cosa, di noi non parlò mai nessuno. Tutti i giorni alla televisione parlavano degli angeli del fango, che erano questi signorini che a rimettere a posto le carte alla Biblioteca Nazionale, d'accordo? Lo so, un lavoro importante, e lo so, ma di noi che si andava, capito? Magari loro stavano lì con le signorine scherzando di là e di là, puliti in un ambiente un po' confortevole, noi a levare i morti delle mucche sotto le travi non ci ha creato nessuno. Da allora cominciai a pensare che era meglio far parte degli intellettuali e dei contatti.